140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Parole e dintorni, ufficio stampa, Milano. Torna con la musica di Braccialetti Rossi 3, ma anche con un romanzo, Ti devo un ritorno. Per i ragazzi, un fratello maggiore, Niccolò Agliardi. Fuori da ogni ipocrisia, io avevo bisogno di raccontare qualcosa anche con una grammatica differente, che poi è la mia, nel senso che Ti devo un ritorno oggi è esattamente quello che Niccolò Agliardi nel 2016, con questo alfabeto, con questa struttura, con questo desiderio di raccontare questo fatto di cronaca straordinario. Adesso non svegliamo poco per non spoilerare, però insomma è successa una cosa davvero incredibile nell'Oceano Atlantico 10 anni fa. Un naufrago ha perduto un carico importantissimo di droga in prossimità di un'isola. Questo carico è arrivato sulle coste di quest'isola e ha completamente disintegrato, se non una, anzi direi addirittura due generazioni di giovani azzorriani. È un libro che si fa leggere da chi ha 16 anni e da chi ne ha poco meno di 90, perché c'è un po' tutto dentro. Ci sono i genitori, c'è l'amore perduto e sbagliato spesso di alcuni genitori, ci sono le meraviglie e le fragilità degli adolescenti, c'è la paura e i dubbi di un uomo che sta per diventare adulto o lo dovrebbe già essere ma ancora non si sente, e si ride. Penso anche che qualche volta ci si commuova, c'è la vita e c'è anche la morte, perché come dice il papà di uno dei protagonisti, la morte è di vitale importanza. Uno dei fili conduttori di Braccialetti Rossi, e lo è anche in Ti devo un ritorno, è l'amicizia. Ho sempre saputo che è bello surfare da soli, scrivi, ma è molto più bello e gratificante quando un amico ti guarda ed è soddisfatto per te. No, hai detto benissimo, l'amicizia è molto presente in Ti devo un ritorno, è sicuramente il filo conduttore del gruppo di Braccialetti Rossi. Ed è bello ritrovarsi in alcune parole, cioè mi fa piacere che tu mi legga delle frasi che io magari ho scritto un anno fa e neanche mi ricordavo più. Questo è un libro anche di surf, e il surf prevede un'amicizia molto matura, è un'amicizia dove si parla poco ma ci si trasferisce molto nel silenzio e anche in una sorta di vanitosa esibizione di sé, perché è bello surfare bene, è bello farsi vedere dal tuo amico che stai cavalcando l'onda giusta. Mi piace questa amicizia tra Pietro e Vasco, che sono i protagonisti, perché parlano poco loro due, così come faccio io con gli amici più cari che ho. Non parlo moltissimo, rido di più di quanto non si parli, e i due ridono molto. E mi piacciono le amicizie silenti, perché vuol dire che si va d'accordo anche con poco. E non ti inginocchio a maledire le stelle, tuo fratello ti scrive da qualche parte, dov'è? Mi manchi ma sai come salvarti, ti sembra poco ma non lo è. Puoi scegliere una tenda, una capanna sul mare, oppure un grattacielo dove farti invecchiare, provare a dare un nome a tutto quello che c'è e poi sparire in un bacio che sembra poco ma non lo è. Kahana Moku ha reso celebre la frase per cui il miglior surfista è quello che si diverte di più, e io, uscendo e planando sulla schiena dell'onda per qualche metro, mi sono sentito il migliore. Tu, divertendoti di più, crei meglio? O perché di solito siamo convinti che i poeti e i musicisti creino meglio quando sono tristi, è vero? Oppure come il surf? Mi sento una persona molto malinconica, ma così drammaticamente fortunata, che sto imparando a fare un po' i conti sia con la parte, cioè non voglio nemmeno vergognarmi della parte in cui mi diverto, perché io sono proprio fortunato, quindi delle volte mi diverto, sono proprio contento di farlo anche se non sto lavorando, cioè non è mica detto che io debba per forza essere appollaiato all'ombra di una solitudine, cioè io delle volte mi diverto e continuo a divertirmi. Quando non mi diverto più arriva la malinconia, lascio lo spazio che merita anche la malinconia. C'è un tempo preciso per diventare un campione o per diventare un uomo in cravatta. Ci sono un po' di frasi che parlano del passare del tempo, del diventare grandi. Tu, anche con braccialetti rossi, hai avuto l'opportunità di essere un po' il fratello maggiore di ragazze che ti sono state intorno e continuano a starti intorno, sia quelli della serie che i fan che ti adorano, perché quando ti abbiamo avuto in radio si sono scatenati. Ti senti... non tanto la responsabilità, il peso, ma anche la gioia di essere o un esempio oppure che chiedano di vedere in te qualche risposta. Dunque, metto insieme le due cose, sì, la gioia, ma prima di tutto il rigore e la responsabilità, spesso anche che ti porta a non poter rispondere. Ecco, una tristezza che ho è che qualche volta a certi dolori preferisco non rispondere, perché non mi posso prendere quel carico lì. Non so quanti istanti abbiano in sé gli atomi generatori di altri universi, quali incroci siano deputati a modificare insieme a noi il nostro futuro. Quando tu pensi a questi incroci che hanno determinato la tua carriera e quando tu guardi la tua carriera adesso, non ti dico che ti guardi allo specchio, ma guardi allo specchio la tua carriera, cosa pensi? Una volta, mi sembra la mia professoressa dell'università mi disse: ognuno di noi è dove voleva essere. Non capivo cosa significasse. In generale, ognuno di noi, dotato di senno, è dove desiderava essere, perché ha compiuto delle scelte, ha fatto delle rinunce, ha mosso dei passi, in base a quello che sentiva, e quello che sentiva in genere lo porta a dov'è. E quindi io mi guardo allo specchio, come dicevi tu, e dico: eccoci, non mi sorprendo, non mi sorprendo perché sono lì dove pensavo di essere. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Niccolò Agliardi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.